ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13:10. E come sempre vi ricordo che abbiamo una lunga, ricchissima versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Come sempre alcune notizie in breve, condensate, selezionate durante la settimana, condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Dopo 3 anni e 3 mesi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che fissa le regole per i contributi fino a 500 euro destinati ad incentivare le connessioni ad internet per le famiglie italiane con un ISEE al di sotto dei 20.000 euro. Per sapere però come funziona nel dettaglio questo bonus dovremo attendere alcuni adempimenti tecnici, tra i quali la pubblicazione di un manuale operativo per i fornitori che verrà pubblicato, dovrebbe essere pubblicato entro la fine di ottobre. Quindi non scrivetemi domani chiedendo informazioni su questo. Ci sarà poi un secondo round di sconti, in una seconda fase, non sappiamo ancora quando, destinato a famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e anche alle imprese. Il bonus non è nemmeno partito che l'AIRES, che è l'associazione dei rivenditori di elettronica di consumo, le grandi superfici che vendono elettronica di consumo, si dice indignata perché la misura avvantaggia solo gli operatori telefonici. Il bonus infatti copre anche i computer, anche i tablet, ma i dispositivi, questi dispositivi devono essere legati ad un servizio di connettività. In effetti AIRES ha ragione, visto che vende questi dispositivi e dovrebbe far parte dell'erogazione di questi bonus. A proposito di dispositivi, ci sono alcune notizie della settimana. La prima riguarda nuovi prodotti di Lenovo, in modo particolare uno che era stato già presentato, quindi non è una novità assoluta, ma per il momento non si poteva comprare. Invece è possibile preordinare anche in Italia il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Fold, che sarà consegnato non prima di 6 settimane. Il modello base costa 2.800 euro e uno dice ma come mai così tanti soldi? Allora, perché l'X1 Fold viene definito il primo notebook pieghevole della storia. Quindi si tratta di una novità e la inseriamo nel segmento foldable, cioè dispositivi pieghevoli. Abbiamo già visto degli smartphone più o meno di forme diverse e questo invece viene definito notebook. Anche se alcuni potrebbero dire che invece è un grosso tablet da 13,3 pollici, il cui schermo OLED flessibile si può dividere in due display affiancati. Non ha una tastiera, ma è possibile affiancarne una o comunque è possibile avere la tastiera virtuale quando è piegato questo notebook. Con un evento digitale di mezz'ora, molto veloce, Google ha presentato nuovi prodotti a partire dalla Chromecast con Google TV, disponibile anche in Italia dal 15 ottobre. Si tratta di una nuova Chromecast, quindi la nota chiavetta da inserire nella porta HDMI del televisore, che in questo caso però integra la nuova Google TV che prende il posto di Android TV. Quindi anche sui televisori dove c'è Android TV verrà sostituita gradualmente da Google TV. Questa nuova Chromecast ha anche un telecomando, quindi possiamo dire che è un vero e proprio set-top box. Google TV contiene vari servizi di streaming anche di altri operatori come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, eccetera eccetera. È stato presentato per l'Italia anche il nuovo Nest Audio, lo smart speaker di Google, e 2 smartphone nuovi che però purtroppo non arrivano in Italia. Allora, si tratta del nuovo Pixel 4a 5G, quindi la versione 5G del 4a, e il nuovo Pixel 5, quindi il nuovo Pixel 5, questa è una novità importante, 5G. Però come dicevo non arrivano in Italia, peccato perché secondo me i Pixel sono tra i migliori Android in assoluto. Io ho provato il Pixel 4a che è disponibile invece in Italia, questo sì che è disponibile in Italia, 4G ovviamente. E ripeto, peccato perché i Pixel sono probabilmente, se non il miglior Android, comunque tra i migliori Android attualmente sul mercato. Dunque, questa settimana ci sono varie notizie frammentarie che riguardano la querelle Huawei Stati Uniti, Huawei Europa, Huawei Italia. Huawei ha annunciato che aprirà un centro per scrutinare l'hardware per quanto riguarda la cyber security a Roma entro un anno, ma di questo insomma, avremo tempo per riparlarne. Quindi c'è comunque un dibattito molto molto acceso e l'aria che tira in Europa è di un'ulteriore stretta nei confronti di operatori che producono hardware per le reti 5G definiti a rischio. Comunque vedremo nelle prossime settimane che cosa anche l'Europa dirà, ma c'è un nuovo fronte che arriva dagli Stati Uniti contro la Cina. Per il momento è solo una dichiarazione, però noi ce la segniamo e vediamo come va a finire. Allora, Geoffrey Starks, che è un componente dell'Agenzia Federale che si occupa delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, ha detto che bisognerà andare a vedere chi gestisce i cavi sottomarini transoceanici e i punti di approdo a terra, ovviamente mettendo in dubbio che la Cina potrebbe usare queste infrastrutture per fare spionaggio. Beh, anche perché molto probabilmente ci hanno già pensato altri stati, tra cui forse anche gli Stati Uniti, a utilizzare i cavi sottomarini e le landing station dove approdano i cavi per fare spionaggio. Quindi anche in questo caso gli Stati Uniti fanno un ragionamento molto semplice, dicono: beh, l'abbiamo fatto noi, lo fanno sicuramente anche loro. E quindi questo potrebbe essere un nuovo fronte. Tenete conto che praticamente quasi tutto il traffico internet mondiale passa in un modo o nell'altro attraverso questi grandi e lunghi cavi sottomarini, che tra l'altro costano milioni o in alcuni casi poco più di un miliardo di dollari o di euro, ma hanno una valenza strategica pazzesca. Un'ultima notizia riguarda la gara per le frequenze 5G in Francia, una gara che inizialmente era prevista ad aprile ma rinviata a causa Covid. La Francia ha terminato la prima fase incassando 2,78 miliardi di euro. Hanno partecipato tutti gli operatori telefonici, la parte più importante ce l'ha avuta Orange e poi anche SFR, Bouygues Telecom e Free poi il marchio di Iliad. Giusto per avere un metro di paragone, anche se in realtà le due aste per il 5G non possono essere paragonate così semplicemente, però giusto così anche come curiosità, l'asta per il 5G in Italia aveva reso per lo Stato, aveva fatto incassare allo Stato o farà incassare allo Stato, visto che non tutti i soldi sono stati versati, lo saranno quando le reti verranno realizzate, 6,5 miliardi. Che sicuramente sono uno sforzo economico per gli operatori non indifferente. Dunque, questa settimana parliamo di smartwatch perché nelle ultime settimane sono stati lanciati sul mercato nuovi prodotti o rinnovati alcuni modelli a partire dagli smartwatch della Apple, gli Apple Watch. Questi prodotti non hanno ancora avuto il successo o comunque la diffusione degli smartphone. Per gli smartphone parliamo di 1,5 miliardi di prodotti venduti ogni anno, poi vedremo quest'anno come andrà, ma per quanto riguarda invece gli smartwatch parliamo di decine di milioni. Però è un mercato in crescita sempre più interessante. Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it. Roberto, bentornato a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oltre ad Apple, che ha presentato i nuovi Apple Watch, quali sono i brand che hanno presentato nuovi prodotti? Un po' tutti, Huawei, Honor, Fitbit con il nuovo Sense, Garmin con il nuovo Venue SE. Tu prima hai detto che sono ancora un prodotto non comprato quanto gli smartphone, però sono andato alla presentazione di Garmin e ci ha fatto vedere come in periodo di lockdown la categoria dei wearable, degli smartwatch, è stata quella che ha avuto un boom enorme, soprattutto in casa, per chi si allenava in casa, faceva esercizio, voleva vedere la sua forma fisica, voleva vedere come stava, voleva un attimino tenersi in forma, e hanno comprato tantissimi gli smartwatch, quindi diventano un attimo la nuova categoria crescente insieme agli auricolari, secondo me. Quindi ancora non come gli smartphone, ma lo diventeranno a breve, ed è per quello che molti ci stanno puntando, soprattutto sulla salute. Ecco, infatti noi abbiamo scelto di parlare delle funzionalità legate alla salute, sia perché siamo in un periodo particolarmente sensibile da questo punto di vista, vista la pandemia, ma poi molto probabilmente perché queste sono le funzioni più interessanti degli smartwatch. Salute, ovviamente, parliamo sia di fitness e anche di tutte quelle accortezze che dovremmo tenere durante la nostra vita a proposito della salute. E vorrei proprio partire da qui e dal Covid. Che cosa alcuni di questi smartwatch, questi orologi intelligenti, ci aiutano a fare o a ricordarci per cercare di tenere alla larga il virus? Beh, diciamo che questa è stata una delle modifiche fatte di recente, appunto per venire incontro a quelle che sono le necessità del momento, di oggi. Il primo è lavarci le mani, lo smartwatch lo teniamo al polso, quindi la cosa più semplice che hanno pensato di fare, Samsung l'ha fatto anche Apple adesso, è di inserire un rilevamento che rileva quando ci leva le mani, utilizza proprio il microfono dello smartwatch, sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi, fa un countdown automatico e ci ricorda anche con una sorta di routine di lavarcele quando magari torniamo a casa. Gli smartphone sono collegati allo smartphone, sanno quando torniamo a casa, quando usciamo, e quindi diciamo, ci ricordano periodicamente di lavarci le mani, perché è una delle cose utili. Mi sono chiesto perché non esistono addirittura smartwatch con rilevamento della temperatura, che può essere anche utile. Oggi entriamo nei vari locali, ci misurano la temperatura per entrare, e magari sapere che al polso abbiamo, non precisissimo ovviamente, 37, 37,2, 36,5, può essere una sicurezza. Me lo sono chiesto, ma ho scoperto che c'è un'azienda americana, una startup addirittura con un ingegnere italiano che l'ha fondata, che ha creato la prima band con il termometro integrato, quindi credo che sarà il prossimo trend di avere anche questo rilevamento al polso, oltre a quelli che ci sono, perché oggi fanno veramente di tutto questi smartwatch. Come si chiama questa startup americana? È Sensoria, che ha fatto questa smart band che prende praticamente parametri vitali per rilevare potenzialmente il Covid-19 e i suoi sintomi, quindi sono addirittura ovviamente l'ossigenazione del sangue, la temperatura corporea e anche il battito, quindi prende questi tre parametri e ti avvisa nel caso in cui tu potresti avere dei sintomi che sono riconducibili a quella che è appunto il Covid-19. Interessante. Senti, in generale questi smartwatch sono connessi allo smartphone o vivono anche in modo indipendente? Allora, molti sono connessi allo smartphone, o comunque vanno connessi allo smartphone durante una prima impostazione, poi li possiamo utilizzare anche scollegati dallo smartphone, ma dipende un pochino dai modelli, sono davvero tanti, alcuni sono indipendenti, puoi andarci magari a correre con la musica, ma poi se vuoi sincronizzare la sessione, vedere quanto sei andato forte, che percorso hai fatto, devi necessariamente avere uno smartphone con uno schermo più grande. Poi ci sono delle soluzioni che però adesso, tipo hai parlato prima di Apple, che ha presentato i nuovi Apple Watch, e c'è Family Setup, che è una funzione che non è ancora arrivata in Italia, ma è molto interessante perché sappiamo che l'Apple Watch è legato necessariamente ad un iPhone, come ogni smartwatch è abbinato al suo smartphone. E ovviamente all'interno di una famiglia, se vogliamo dare questi dispositivi che diventano sempre più utili ad un anziano, un bambino, al bambino per mettersi in contatto con i genitori magari quando è al parchetto, o all'anziano per chiedere aiuto perché magari è a casa da solo, non possiamo pretendere che tutti abbiano un iPhone, che costa anche parecchio. Quindi Apple ha pensato di fare questa applicazione che si chiama Family Setup, che permette al capo famiglia di andare a configurare e gestire tutti gli Apple Watch dei parenti che non hanno necessariamente un iPhone, magari hanno uno smartphone più economico, quindi anziani, bambini soprattutto, potranno avere anche loro un Apple Watch, che adesso parte da circa 250 euro con il modello entry level, il serie 3, che ha qualche anno di vita, però è comunque ancora buono, e quindi potranno avere questo watch che ha delle funzioni necessarie per appunto la localizzazione e soprattutto per la salute. Penso agli anziani, uno di questi, il più importante, secondo me, è il rilevamento delle cadute. Ecco, poi ne parliamo. Ti faccio una domanda sempre sulla possibilità che uno smartwatch viva da solo. Cioè ci sono dei modelli che hanno la SIM integrata e quindi potrebbero anche vivere da soli? Assolutamente sì, hanno la SIM integrata, vivono da soli, nel senso che possono fare tantissime cose senza necessariamente uno smartphone collegato, però anche questi per la configurazione sono solitamente abbinati ad uno smartphone. Ok, quindi normalmente comunque vivono in simbiosi con lo smartphone che è il nostro effettivamente compagno. Io dico sempre, è ormai il telecomando della nostra vita, lo usiamo per fare un sacco di cose. Tornando alla salute, tu hai citato il rilevamento delle cadute, che immagino possa valere per tutti, però in modo particolare per gli anziani. Come funziona? Beh, allora, vale per gli anziani, ma vale anche per chi, ad esempio, fa alpinismo, perché utilizza l'accelerometro all'interno dell'orologio per rilevare un'accelerazione di superiore a 16G, quindi vicino a 32G, e riesce davvero a capire se una persona è scivolata in modo lieve, quindi nessun problema, oppure se ha fatto una caduta davvero rovinosa, e a quel punto automaticamente lui prende e chiama aiuto. Lo chiama in automatico se è uno smartwatch con la SIM integrata, lo chiama utilizzando il Bluetooth e quindi l'iPhone collegato nel caso di Apple, ma nel Android nel caso invece di altri smartphone, chiama delle persone e invia SMS d'aiuto anche all'ambulanza, al pronto soccorso, dicendo attenzione, questa persona è caduta e forse si è fatta male. Quindi scatta, diciamo, quella che viene chiamata una modalità SOS, che invia l'alert. Vale anche per chi è in montagna, funziona anche se uno magari cade, sta facendo una ferrata e cade da 5 metri, c'è l'orologio al polso, o cade in un dirupo. Quindi, diciamo, è una funzione che è assolutamente utile, perché magari tu perdi i sensi, non puoi chiamare aiuto, lo fa lo smartwatch per te in automatico questo. Allora, ci sono degli smartwatch che fanno ancora di più e soprattutto negli ultimi anni hanno migliorato le funzioni di controllo del cuore, chiamiamole così. Che cosa fanno alcuni di questi modelli? Beh, diciamo che allora tutti ovviamente gli smartwatch sono tutti molto simili, perché di base offrono ovviamente un quadrante con l'orologio, le notifiche, funzioni sportive. Per differenziarsi hanno iniziato a mettere in alcuni prodotti di fascia alta delle funzioni che sono davvero utili, perché quella più utile di tutti secondo me è il rilevamento delle aritmie cardiache, che sono una cosa che vanno curate. Molte persone hanno questo problema di aritmia, e un orologio sempre al polso che misura ogni tot di minuti il battito, controllando che sia a posto e ci segnala il caso in cui ha rilevato una piccola aritmia e quindi ci dice vai a farti vedere, è successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, persone che avevano appunto uno smartwatch al polso che sono state salvate proprio per questo allarme di aritmia. Ci sono anche allarmi che riguardano appunto il battito magari troppo lento, il battito troppo accelerato, quindi non sono dispositivi medici, non sostituiscono i medici, però possono fornire un'indicazione per dirci attenzione, qualcosa non va, vatti a far controllare. Poi magari è un falso allarme, qualche volta è successo che uno smartwatch ha salvato davvero la vita a una persona. Immagino che non tutti gli smartphone facciano questo, sono solo prodotti più nuovi? Sono prodotti più nuovi, sono i prodotti più evoluti. Prodotti con elettrocardiogramma sono davvero pochi, c'è l'Apple Watch, c'è il Samsung, ovviamente l'elettrocardiogramma per farlo devi ricevere una certificazione anche CE, quindi sono pochi che lo fanno, è un elettrocardiogramma monocanale, quindi non rileva assolutamente gli infarti, serve un ECG serio per farlo, però potrebbe essere appunto nel caso di aritmia un aiuto, dove tu ti fai un elettrocardiogramma, prendi il PDF, lo invii tramite WhatsApp al tuo medico di cura e lui può dare un occhio magari a vedere se veramente c'è stato questo problema, questo piccolo cosa sta succedendo, ti consiglia magari una visita. Questa è una, però ci sono appunto le aritmie, le ECG, c'è anche adesso il saturimetro, che è andato molto di moda durante il periodo del Covid, che le persone hanno comprato perché l'ossigenazione del sangue è uno dei parametri utilizzati, come ben detto prima, per valutare se ci sono problemi legati appunto al Covid. C'è lo stato di ossigenazione del sangue, tutti i parametri che riguardano appunto il benessere salutare della persona, quindi una serie di parametri utilissimi per conoscere, ogni persona con uno smartphone al polso conosce il suo stato di forma fisica, il suo stato di stress e il suo stato anche di riposo, perché non ricordiamoci che i primi sono nati proprio per analisi del sonno. Certo, questa è un'altra delle funzioni di uno strumento, di un oggetto che abbiamo effettivamente sempre al polso. Senti, le funzioni più nuove che riguardano lo sport. Noi sappiamo che lo smartwatch da tantissimi anni, prima che diventasse anche un nome riconosciuto nel mercato consumer, c'erano già degli orologi che gli sportivi utilizzavano. Magari non erano smart, non erano molto smart, ma facevano già un sacco di cose. Quindi non stiamo dicendo nulla nuovo in modo particolare agli sportivi. Però le cose più nuove per chi fa sport e quindi chi usa lo smartwatch per raccogliere informazioni su, che ne so, la corsa che sta facendo, il percorso che sta facendo, poi lo riporta sulla mappa con tutta una serie di dati. Allora, ci sono sempre stati degli orologi sportivi che davano tutte queste indicazioni, addirittura i Garmin Forerunner sono famosissimi, sono tra i più venduti per chi corre, per chi fa sport, per chi va in bicicletta anche. Poi ovviamente nel corso del tempo sono nati questi smartwatch più versatili che ci permettono di spaziare tra diversi sport. Magari non sono specialistici per un singolo sport, però possono fare un po' di tutto. Ti faccio un esempio: l'altro giorno sono andato in montagna a sciare, avevo al polso uno smartwatch nuovo e mi ha stupito per il fatto che io ho detto tracciami semplicemente lo sci, e ha controllato e verificato quando salivo prendevo lo ski lift, quindi non registrava nulla, registrava solo le discese, mi ha dato i tracciati di ogni discesa, mi ha detto quanto sono andato veloce, mi ha dato l'inclinazione, quanto ho faticato, mi ha dato ogni singolo parametro. Quindi diciamo sport, adesso tutti gli smartwatch hanno diverse modalità di allenamento che vanno davvero a tracciare ogni singolo tipo di allenamento, verificando che i parametri siano quelli corretti e che venga svolto nel migliore dei modi. Apple ha introdotto addirittura la danza, l'hip hop nell'allenamento, ha introdotto anche gli addominali. Quindi diciamo adesso la moda, se così possiamo dire, è creare sempre più routine specialistiche in modo tale che ognuno si trovi la routine adatta al suo allenamento, che vuol dire anche allenarsi meglio, sapere che sforzo si è fatto nel modo corretto, quante calorie una persona ha bruciato e soprattutto, grazie ad altri parametri, sapere quanto e quando puoi allenarti di nuovo. Una delle funzioni più carine, secondo me, è la body battery di Garmin. La body battery ti dice quanto il tuo corpo è carico. Tu ti alzi la mattina, l'ho provata, quindi ti alzi la mattina che hai dormito tanto, hai dormito le tue 8-9 ore, non hai bevuto niente la sera prima, solamente acqua, e la body battery, bella carica, puoi andare ad allenarti e non ti succede niente. Bevi 2 bicchieri di vino la sera, magari dormi poco, vai a letto tardi, fai le ore piccole, ti alzi la mattina e il tuo orologio dice guarda, oggi la tua body battery è solamente il 33%, tu puoi andare ad allenarti se vuoi, però te lo sconsiglio perché non renderai assolutamente, ed effettivamente ci provi e ti rendi conto che il tuo corpo non risponde come dovrebbe agli stimoli. Quindi sono tutte indicazioni che prendono tantissimi dati e ti aiutano, diciamo, anche a capire quando è il caso di riposarti. Magari tu non lo sai perché tu vorresti allenarti tutti i giorni, invece lo smartphone sa che quel giorno lì, anche se ti alleni, non è un allenamento che ti fa bene, è un allenamento che magari non ti porta a migliorare perché il tuo corpo è stanco, è scarico, hai dormito male, sei stressato e non stai rispondendo bene quindi agli stimoli che l'allenamento dovrebbe darti. Allora, naturalmente potremmo parlare ora di questi strumenti, anche perché sono uno diverso dall'altro, c'è molta varietà, esatto, molta più che negli smartphone, giusto? Assolutamente sì, diciamo che mentre gli smartphone oggi sono davvero quasi tutti uguali, il bello di questi orologi che stanno veramente differenziandosi, anche perché la gente fa tantissime cose e giustamente ci sono smartwatch specializzati che stanno specializzando su determinati settori, chi per la corsa, chi magari per l'alpinismo. Ne ho provato uno addirittura con una funzione molto carina la scorsa settimana, che ti fa il percorso inverso col GPS anche senza copertura o anche senza lo smartwatch abbinato. Quindi ti si scarica la batteria dello smartphone. Tu non hai più magari Google Maps, non hai più il GPS attivo, però non hai registrato il tracciato, però lui ti fa tornare indietro sulla stessa strada che tu hai fatto, semplicemente perché ha memorizzato il percorso fatto all'interno dello smartphone stesso. Quindi potrebbe essere utile magari per chi va a funghi nel bosco e poi si perde, perché è una delle cose più comuni, perdersi quando sei in un bosco e vai un po' a caso senza seguire un pensiero, senza seguire un tracciato prestabilito. Ci sono funzioni comunque carine e credo che sia veramente il punto dove nel prossimo futuro ci sarà più innovazione, quella dello smartphone e quindi della tecnologia al polso, perché può fare davvero tantissime cose e ce l'abbiamo su tutto il giorno e ci conosce, sa quanto dormiamo, sa quanto siamo stressati, sa cosa stiamo facendo, sa come ci muoviamo, quindi sa un po' tutto di noi, ci aiuta a respirare meglio, ci aiuta, ci dice alzati perché sei seduto da troppe ore, tutte cose che lo smartphone non fa. Certo, perché lo smartphone magari ce l'abbiamo appoggiato sulla scrivania o da qualche altra parte. Un'ultima domanda che si lega alle ultime parole che tu hai detto, quindi comunque se uno usa uno smartwatch e non è abituato magari a usare un orologio, deve mettersi nell'ordine delle idee che deve tenerselo al polso praticamente sempre. Allora, se vuole l'analisi del sonno, che è una cosa che molti fanno, assolutamente sì, deve verificare che sia uno smartwatch che dura abbastanza, perché anche le durate cambiano. L'Apple Watch dura un giorno o due, poi va ricaricato. Ci sono smartwatch che durano 25 giorni, magari perché spengono il display, perché non sono così complessi, perché vengono utilizzati magari un po' meno. Quindi ogni smartwatch ha anche la sua durata, la sua autonomia. Uno smartwatch che ti dura una settimana o 20 giorni, automaticamente tu lo usi e lo tieni su di notte senza problemi, quindi ti misura anche il sonno. Se tu sai che devi ricaricarlo spesso, la funzione d'analisi del sonno magari la usi una volta alla settimana per vedere, giusto per tua curiosità, ma non è una funzione che usi abitualmente. Quello che suggerisco io è di stare molto attenti allo smartwatch che si compra, perché mentre lo smartphone tu lo prendi, lo usi e esci di casa, l'hai dimenticato a casa e torni dietro a prenderlo, lo smartwatch, se non è uno smartwatch che fa esattamente quello che tu vuoi, non lo ritieni utile, è uno di quei prodotti che magari lo lasci nel cassetto e non lo metti più e ti disabitui. Ci sono tanti smartwatch che sono semplicemente delle band che ti danno i passi, notifiche povere e ti danno poco sull'uso quotidiano. Quelli che ti danno poco magari ti fanno un attimino disinnamorare dello smartwatch e ti lasciano pensare ok, non mi serve niente, cosa me ne faccio io, uso l'orologio normale che è uguale. Quindi va scelto bene il dispositivo, deve essere un dispositivo che fa delle cose che sono utili per te, altrimenti davvero il rischio è quello che lo lasci nel cassetto. Roberto, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. A proposito di numeri, secondo Counterpoint nella prima metà dell'anno sono stati consegnati circa 42 milioni di smartwatch, il 51%, un po' più del 51% sono Apple Watch e poi gli altri sono veramente distanziati. Garmin ha il 9,4% del mercato, Huawei l'8,3%, Samsung il 7,2% e questi praticamente fanno il 75% del mercato, quindi dietro ad Apple c'è insomma molta distanza. Adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco. Bentornati, io sono Enrico Pagliarini, quello che state ascoltando è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure potete scegliere Facebook, Twitter o LinkedIn cercando Enrico Pagliarini oppure 2024. Quest'estate i ricercatori di Trend Micro e del Politecnico di Milano hanno presentato una ricerca su un settore un po' dimenticato dal mondo della cyber security ma estremamente importante, i robot industriali. Se voi vi girate attorno, guardate gli oggetti che vi stanno attorno e molto probabilmente quasi tutto è stato prodotto da un robot industriale. I robot industriali esistono da tantissimo tempo, da tantissimi anni, ma ovviamente più passa il tempo più diventano sempre più sofisticati, sempre più intelligenti, sempre più smart, diventano collaborativi, cioè devono gestire rapporti con gli umani, con gli operai, con le persone che stanno in fabbrica. E sempre più connessi in ottica di industria 4.0, come fa un robot, una macchina a non essere connessa? E allora i ricercatori di Trend Micro e Politecnico di Milano sono andati ad indagare qual è il livello di sicurezza del software che gestisce i robot, queste macchine. Federico Maggi è un ricercatore di Trend Micro Research, benvenuto a 2024. Grazie a te. Federico, ti faccio solo dire 30 secondi che cosa fa Trend Micro Research. Ci occupiamo dal 2008 di cybercrime, quindi quando succede ad esempio un incidente informatico oppure cercare di capire quale può essere una probabile superficie di attacco, un potenziale attacco non ancora visto. E poi facciamo tutta questa ricerca che riguarda temi più tecnologici, quindi andiamo a vedere le nuove o molto vecchie tecnologie che, da cui magari dipendono la società e le vite di tutti i giorni, qual è il loro livello di sicurezza o quali sono le problematiche che possono derivarne da un abuso. In questo caso, quello di cui vogliamo parlare oggi, voi avete analizzato un settore industriale tra i più importanti. In modo particolare, che tipo di analisi, che tipo di indagine avete fatto? Volevamo capire quale fosse il grado di maturità a livello di cyber security del software che di fatto pilota questi robot, no? Questi robot sono utilizzati per qualunque cosa, per produrre veramente tutto, per maneggiare qualunque tipo di materiale. Quindi al di là della meccanica, che è sicuramente la parte più importante, volevamo capire quale fosse le caratteristiche di sicurezza del software che gira a bordo di questi robot. Quando voi parlate di robot, parlate ovviamente di macchine industriali in senso lato, certo. Anche un tornio, una pressa, un tapis roulant, cose del genere. Guarda, prettamente robot cosiddetti manipolatori, cioè con un braccio meccanico, con più gradi di libertà, in grado di riprodurre tutti i movimenti di un braccio umano, dove però al posto della mano ci puoi mettere quello che vuoi, puoi metterci un taglio laser, puoi metterci una pinza, puoi metterci un trapano, quindi sono molto versatili, proprio per questo devono essere programmati come dei computer, perché possono fare qualunque cosa. Ok, software che servono per programmare queste macchine, che tipo di software sono? Non immagino che non siano i software che usiamo sui computer. No, diciamo la cosa più vicina a cui magari il pubblico generale può essersi avvicinato sono le stampanti 3D oppure quei simulatori di ambienti tridimensionali, no? Quindi immaginate che per programmare un robot uno deve innanzitutto simulare l'ambiente e il robot stesso, quindi con tutta la sua fisica a bordo, e poi inizia scrivendo con un linguaggio o testuale o anche con l'assistenza di strumenti visuali, scrivendo i movimenti che questo robot deve fare, e alla fine del lavoro poi andrà a caricare il programma che il robot eseguirà sulla memoria del robot. Il robot non farà altro che continuamente eseguire questo ciclo di istruzioni, perché alla fine sono istruzioni che arrivano fino ai motori, no? Che cosa avete scoperto? Allora, innanzitutto noi abbiamo analizzato 8 tra i maggiori produttori di robot, e la prima cosa da dire è che nessuna di queste piattaforme è uguale all'altra, sono degli ambienti molto proprietari. Quindi c'è un forte lock-in della clientela, per così dire, nel senso che una tecnologia non può essere facilmente cambiata in corso d'opera, sicuramente, e comunque è molto dispendioso passare da una tecnologia all'altra. Quindi ogni produttore ha i suoi linguaggi, ha le sue specifiche, ha le sue caratteristiche, ma qualcosa di comune che abbiamo notato è che questi linguaggi non si limitano a permettere al programmatore di esprimere movimenti, no? Cioè, uno si immagina che un robot debba essere programmato a colpi di muoviti di 30 gradi a destra, alza il braccio di 10 centimetri, prendi l'oggetto, deposita l'oggetto, no? Quindi istruzioni di movimento. Quello che abbiamo trovato invece è che quasi tutti i produttori forniscono agli ingegneri che programmano questi robot delle istruzioni molto potenti, che li rendono molto più simili a dei computer che non a dei robot. Quindi, ad esempio, è possibile con questi linguaggi accedere alle risorse di basso livello del robot. Quindi, ad esempio, è possibile manipolare il modo in cui il robot riceve comandi dalla rete o mandare comandi in rete, oppure è possibile, per i più esperti, per i più tecnici, manipolare la memoria del codice, dove risiede il codice, e quindi mentre il robot esegue il suo normale programma è possibile alterare quello che è il programma in esecuzione. Funzionalità che normalmente si trovano in tutti i linguaggi di programmazione, ma non ci aspettavamo di trovarli nei linguaggi per i robot, perché sono funzionalità che, se non usate in modo corretto, possono essere molto pericolose. Ok, normalmente questi software vengono utilizzati, compilati, quindi la programmazione del robot la fanno le aziende che li producono, i robot te le portano in fabbrica e poi tu, azienda, produci i tuoi pezzi, o ti arriva il robot e tu con i tuoi tecnici li devi programmare? C'è un grande universo di system integrator, quindi l'azienda che produce il robot ha un certo numero di tramiti prima di arrivare al cliente, e questi system integrator si occupano del design di tutto l'impianto e quindi anche della scrittura dei programmi. Tuttavia la cosa che abbiamo notato è che, per via della grande flessibilità richiesta, della grande rapidità con cui nuovi programmi di automazione devono essere prodotti, stiamo notando che gli ambienti di programmazione stanno diventando sempre più facili da usare, sempre più vicini a portarsi quasi in casa, quindi molte realtà possono scegliere di programmare in casa questi robot per esigenza di flessibilità, perché è lì che l'industria 4.0, il trend dell'industria 4.0 eccelle e vuole andare a puntare, insomma. Certo, dal punto di vista della cyber security, a quale risultato siete arrivati? E insomma, come dicevo prima, ci sono questi linguaggi che sono molto vecchi, no? Progettati 20-10 anni fa, che ovviamente non cambieranno per molto molto tempo, quindi devono restare lì, perché le aziende e la produzione di quello che noi abbiamo nelle nostre case, nelle nostre aziende tutti i giorni, dipende da quelli. Quindi c'è un forte lock-in, non si possono cambiare questi linguaggi, non si possono cambiare queste piattaforme. I linguaggi sono pericolosi, nel senso che se usati male possono contenere, possono esprimere delle vulnerabilità nei programmi finali, e noi abbiamo trovato delle vulnerabilità appunto in alcuni programmi che abbiamo analizzato, che possono permettere a un aggressore di fare diverse cose, dalla tra virgolette banale furto di dati, fino anche a manipolare i movimenti del robot, magari introducendo dei difetti nella produzione che poi a lungo termine possono dare all'aggressore varie possibilità, che so, ti modifico il prodotto e poi ti dico di pagare un riscatto se vuoi sapere come ho modificato o su quanti prodotti ho fatto questa modifica. Queste macchine, normalmente, da quello che avete capito voi, sono connesse o no? Allora, molti impianti sono progettati seguendo quella che a me piace chiamare assunzione di mondo chiuso, cioè che siano effettivamente isolati dalla rete. Tuttavia il trend spinge nella direzione opposta. Il trend evolutivo vuole che questi robot siano connessi quantomeno a una rete aziendale, per varie ragioni, perché ho bisogno di raccogliere dati di produzione per poi ottimizzarla, ad esempio, o perché voglio gestire tutti i miei ordini in maniera centralizzata, o comunque voglio poter gestire i miei ordini senza dover camminare o comunque mandare del personale fino alla macchina. Quindi sono sempre più connessi. Non vuol dire che di pari passo stia evolvendo la consapevolezza di questa cosa, no? Nel senso che, parlando con alcuni esperti del settore o comunque ingegneri dell'automazione che lavorano effettivamente sul campo, quando menzioni il termine cyber security, la prima risposta è: ah sì, sì, però i nostri impianti sono isolati, quindi queste cose non possono succedere a noi, no? Però ovviamente possono succedere sicuramente, perché le capacità di un aggressore sono ovviamente aumentate, e c'è sempre più possibilità di saltare dentro queste reti utilizzando diversi mezzi. Certo, comunque sia, se le macchine non sono connesse, e ovviamente in ottica di industria 4.0 non ha senso che non siano connesse, quindi è giusto che siano connesse, però se non sono connesse sono abbastanza protette da attacchi cyber. Sono protetti da attacchi cyber nella misura in cui questi attacchi non riescono ad arrivare vicino alla macchina, ovviamente. Ho sentito qualche settimana fa una persona che mi diceva che tutte le sue macchine sono sconnesse, nel senso che non esiste un cavo di rete. D'altra parte, però, quando deve caricare un programma sulla macchina, lui con una pennetta USB deve andare fisicamente sulla macchina, e poi quando gli ho chiesto sì, ma da dove arriva questa pennetta USB, lui mi ha detto beh, me la dà il programmatore che mi prepara il programma. Certo, quindi... Ok, quindi ci sono diversi gradi di connessione. Sì, sì, sì. Cioè se il programmatore ha subito un attacco sul proprio computer, poi automaticamente tutto si espande. Sì, si può connettere anche non direttamente. E, senti, tu già hai accennato qualcosa poco fa, però ti faccio una domanda più specifica sulle motivazioni che portano un attaccante, un hacker, a colpire un impianto industriale, perché noi parliamo spesso di cyber security e sappiamo benissimo, ormai molti dei nostri ascoltatori, direi tutti, sanno che se uno attacca un sistema industriale può raccogliere delle informazioni, se uno attacca, che ne so, una banca può rubare soldi, pure se uno blocca i sistemi di un'azienda con ransomware può chiedere un riscatto, ma uno perché dovrebbe attaccare un robot? Sui robot, innanzitutto i robot sono dei computer come lo sono i computer a cui siamo abituati, no? A bordo di un robot c'è un computer, quindi è una risorsa sia di come può essere una testa di ponte per entrare nell'azienda, quindi innanzitutto è interessante per quello. Dopodiché è una risorsa perché contiene delle informazioni che magari sono più difficili da recuperare in altre, perché è difficile raggiungere le macchine in cui sono memorizzate. Mi viene in mente ad esempio il disegno di un pezzo costituisce un segreto, no? Quindi è un'informazione assolutamente importante, un segreto industriale. Oppure, come dicevi giustamente tu, tenere bloccato un robot o fare dei danni, anche danni silenziosi per così dire, no? Ho accennato prima all'introduzione di microdifetti, può costituire una leva per poi fare degli attacchi di tipo estorsivo, quindi che so, manipolo o rovino la produzione in maniera impercettibile, poi dopo qualche mese ti contatto e ti faccio sapere la cosa, in cambio delle informazioni che io ho raccolto voglio, come aggressore, voglio avere una certa somma di denaro, ad esempio. Infatti è una tendenza non soltanto di questo tipo di attacchi, un po' se vuoi difficili da vedere, ma è una tendenza generale degli attacci ransomware. C'è una tendenza sempre di meno a bloccare subito tutte le macchine, ma si tende invece a raccogliere quante più informazioni possibili e poi pian piano con il contagocce far vedere alla vittima che gli aggressori sono in possesso delle informazioni e poi chiedere riscatto per evitare di rilasciare tutte le informazioni con conseguente danno alla reputazione. Quindi è una leva molto più subdola della richiesta di riscatto immediata, no? Sì, in effetti al micro difetto non avevo mai pensato. Sono già successe cose del genere? Allora, che io sappia, no, non sono successe cose del genere. C'è stato però un esperimento interessante, mi pare nel 2016, alcuni ricercatori hanno fatto vedere quale sarebbe l'effetto di un micro difetto invisibile all'occhio sul rotore di un drone, no? Quindi hanno creato hanno stampato un rotore di un drone, un'elica di un drone con una stampante 3D industriale, quindi la stessa che sarebbe utilizzata per produrlo, introducendo però un micro difetto che fosse invisibile a occhio nudo. Quello che è successo è che il drone è partito, è andato in volo e dopo un po', a un certo punto, l'elica si è spaccata e il drone è precipitato. Quindi l'evidenza della possibilità c'è, non c'è evidenza ancora che io sappia di un attacco arrivato fino a quel punto. Certo, alcuni potrebbero dire a questo punto state dando dei suggerimenti agli hacker, ma gli hacker le sanno benissimo queste cose. Ma a questo punto quali suggerimenti voi avete dato, state dando, che cosa si può fare? Noi notando, abbiamo fatto una breve ricerca sul grado di maturità delle conversazioni tra gli ingegneri dell'automazione. Noi abbiamo analizzato circa una dozzina di forum dove i programmatori industriali si parlano e abbiamo notato quasi totale assenza di conversazioni riguardo alla cyber security. Quindi abbiamo pensato immediatamente a loro, producendo alla fine del nostro rapporto tecnico una guida in circa 10 punti, dove traduciamo quelle che per un programmatore informatico esperto di cyber security possono essere delle ovvietà. Cioè diamo delle linee guida per programmazione sicura, cose che adesso si insegnano all'università a programmatori IT, quindi programmatori che andranno a programmare computer normali. Ecco, tutte queste metodologie, queste linee guida, noi le abbiamo cercate di tradurre nella, tra virgolette, lingua parlata da ingegneri dell'automazione, quindi facendo esempi contestuali con linguaggi che loro conoscono bene, ecco. Quindi c'è questa guida che è parte del nostro rapporto tecnico e insieme al rapporto tecnico poi lasciamo una serie di raccomandazioni, tra cui ad esempio segmentare la rete in modo corretto. Ci sono anche degli esempi illustrati su come ad esempio non collegare il robot in un certo modo, perché se si compromette una macchina vicino al robot è possibile arrivare fino al robot, o viceversa, se si compromette il robot ci si può propagare. Quindi una serie di metodologie di buon design di rete, ecco. Voi tra i risultati della vostra analisi scrivete che queste criticità non sono mai state affrontate, e uno si domanda: ma per quale motivo? Cioè, a me mi stupisce. Perché sono molto in profondità, nel senso che tiriamo indietro la macchina del tempo di circa una ventina d'anni, 20-25 anni, no? Quando le applicazioni web, quelle a cui oggi noi confondiamo addirittura con dei siti web, perché di fatto il contenuto e il fatto che siano attive ci sfugge, no? Però in realtà 20-25 anni fa non era ovvio, no? Quindi un'applicazione web era un programma che girava e che aveva una serie di vulnerabilità che venivano scoperte solo andandole a cercare. Adesso questo tipo di vulnerabilità su applicazioni web sono diventate sostanzialmente molto, molto più rare, perché ormai si conosce tutto, o comunque si conosce molto, sul come andarle a cercare. Ora, secondo me, la informatica industriale sta subendo una rivoluzione simile che porta a essere i programmi industriali sotto lo stesso riflettore a cui le applicazioni web erano 20-25 anni fa. Quindi adesso c'è la motivazione sia per ricercare ma anche per attaccare dal punto di vista di un aggressore. Perciò secondo me era un buon momento per aprire questa scatola e guardarci dentro, non che non fosse mai stata affrontata, perché noi qualche anno fa avevamo già guardato, però soltanto in superficie. Una domanda che non ti ho fatto prima: tu hai accennato, quando abbiamo parlato prima di questa intervista, a un nuovo mondo che sta nascendo assieme ai software per l'automazione industriale, per automatizzare, far funzionare questi robot, a App Store, dove uno può andare a prendere dei pezzettini di software. Spiegaci che cosa sta succedendo e che ruolo hanno questi nella dinamica di possibili minacce cyber. Non so se vi ricordate, ma quando c'erano i primissimi cellulari era quasi impossibile trovare un modo semplice per caricarci sopra qualcosa. Ogni produttore aveva quei due o tre giochini, si caricavano se ci si riusciva e finita lì. Dopo tutti questi anni di innovazione ci troviamo con gli App Store, dove praticamente non ci accorgiamo neanche tanto è rapido installare del software. Ecco, nella robotica e nell'informatica industriale, per via del fatto che è necessario, comincia a diventare necessario andare più veloci, nel senso di produzione e programmazione, stanno nascendo piattaforme simili dove programmatori possono creare e caricare dei piccoli pezzetti di software o anche delle applicazioni complete che, anziché andare a finire sul telefonino, vanno a finire sul robot o sul computer usato dal programmatore per programmare il robot. Quindi una serie di strumenti riusabili che rendono la vita del programmatore un po' più facile, ma anche ovviamente, come è stato per gli App Store, un'evoluzione naturale, App Store per cellulari, voglio dire, si aprono tutta un'altra serie di rischi, ma anche di opportunità. Rischi perché se ci sono delle vulnerabilità come quelle che abbiamo trovato negli app store che abbiamo guardato, è più facile per un aggressore arrivare fino al robot. D'altra parte però, come è stato per gli app store per cellulari, il ruolo dell'app store è fondamentale in quanto gatekeeper, come si dice, porta di ingresso. Come dire, di ingresso verso tutto ciò che viene, esatto, come quello che viene, tutto ciò che va caricato sul robot, può essere controllato da un punto solo, comunque da pochi punti, mentre la situazione in cui siamo adesso è che il software che va a finire sui robot arriva dappertutto, può arrivare dalla chiavetta del programmatore, può arrivare dal sistema integrator, può arrivare dal produttore. Con la convergenza della distribuzione e la produzione del software, seguendo il modello degli app store, ecco che gli app store diventano degli ottimi punti dove si possono fare dei controlli sulla sicurezza piuttosto che sulla presenza di vulnerabilità o meno dei programmi che vanno a finire sui robot. Ti faccio un'ultima domanda sulla opportunità di avere dei software comuni, dei linguaggi di programmazione comuni nell'industria. Questo sarebbe, immagino che sarebbe utile sempre in ottica di integrazione di industria 4.0, ma dal punto di vista della sicurezza avere pochi software comuni nell'industria, poi ovviamente capisco che mettere d'accordo i produttori di software di software per questi robot e di macchine in generale nel mondo industriale sia un po' complicato, però cosa pensate voi? Sì, è abbastanza difficile perché vengono da storie molto lunghe, molto consolidate, e quindi ci tengono a tenere le proprie tecnologie, giustamente. Ci sono una serie di vendor neutrali che propongono soluzioni di, ad esempio, traduzione, no? Uno scrive in un linguaggio semplice come può essere Python e poi si compila in il linguaggio di ABB o il linguaggio di Kuka o il linguaggio di Kawasaki, no? Esistono piattaforme cross vendor di questo genere, come esistono delle iniziative open che in realtà non sono per niente nuove, ed è il caso della ROS, Robot Operating System Consortium, che è un consorzio internazionale che mantiene l'unico sistema operativo open source per robotica, che può essere utilizzato sia dalla robotica domestica fino alla robotica o automazione a bordo di un'automobile, ma anche per robotica industriale. Questo consorzio mantiene, come dicevo, un sistema operativo libero che funziona su qualunque computer e quindi può essere utilizzato sostanzialmente su tutti i robot, e difatti ha tutta una serie di modulini aggiuntivi per, ad esempio, tradurre da un linguaggio standard al linguaggio di ABB, al linguaggio di Mitsubishi o di Comau. Ecco, ogni produttore ha il suo, e ROS cerca di creare un ombrello che li ricopre tutti. Tra l'altro con ROS Consortium abbiamo avuto un ottimo scambio, perché alcune delle vulnerabilità che abbiamo trovato erano appunto in questi adattatori, questi traduttori da un linguaggio all'altro, e loro hanno reagito molto positivamente pubblicando tra l'altro delle linee guida che complementano molto bene le nostre linee guida, che consigliano come configurare correttamente un robot per evitare, nonostante la vulnerabilità, che questa vulnerabilità possa essere poi effettivamente sfruttata. Grazie a Federico Maggi per essere stato con noi, a presto. A presto, grazie. Bentornati, questa è l'ultima parte del nostro programma. In questa ultima parte ci occupiamo del progetto Rete Unica. Molti nostri ascoltatori ci hanno sollecitato e ci hanno chiesto: cercate di approfondire e spiegarci che cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, che cosa bisognerebbe fare, se è giusto o sbagliato quello che si sta facendo, questo progetto per creare un'unica società della rete, su cui vanno scritti ancora molti dettagli, perché a poco è ancora stato, c'è un quadro generale, un perimetro, ma insomma molto deve essere scritto. Comunque è un tema molto importante, anche molto complesso, ci sono degli aspetti finanziari, ci sono degli aspetti regolamentari, ci sono degli aspetti tecnologici. tutt'altro che semplice, tutt'altro che facile. E ovviamente proprio la difficoltà di questo argomento fa sì che non se ne parli molto, e questa è una cosa sbagliata, perché ormai sappiamo che la rete internet è strategica per un paese, strategica per la società, per l'educazione, per l'intrattenimento, un po' per tutto. Ormai la nostra vita non potrebbe esistere se non ci fosse internet. Allora, questo è uno dei motivi per cui ne parliamo. In questa puntata abbiamo scelto di raccogliere il commento di Raffaele Tiscar, che è stato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi e ha redatto il piano banda ultralarga attualmente in fase di realizzazione. Quindi quello che si sta facendo oggi attraverso Infratel e poi Open Fiber e anche altre società è stato scritto da Raffaele Tiscar, a cui ho chiesto di fare un po' di storia e partire da un di anni fa. La storia recente racconta che in virtù di un maggior grado di competitività nel settore della infrastrutturazione digitale, in realtà in Italia si è incrementato il livello di investimenti in termini di realizzazione di infrastruttura. Questo è quello che gli anni recenti raccontano. Dopo decine d'anni trascorsi dall'abbandono da parte di Telecom Italia del piano Socrate, piano assolutamente avveniristico di realizzazione della rete in fibra ottica che avrebbe dovuto sostituire l'infrastruttura storica di rame nata sulla telefonia per garantire all'utente la connessione in telefonia, non certo perché allora non esisteva quella di veicolare internet e di utilizzare la rete in rame per veicolare il digitale. Dopo anni di quell'abbandono in cui Telecom Italia, monopolista della rete e dell'infrastruttura telefonica in Italia, ha di fatto congelato tutti gli investimenti, non realizzando se non nella parte primaria, cioè nella parte che da un punto di vista tecnico si chiama anche backbone, cioè l'infrastruttura che sta a monte, l'ultimo pezzetto di infrastruttura che arriva fin dentro le case. In realtà Telecom Italia ha semplicemente provveduto a garantire un'offerta un po' più in linea rispetto alla domanda di connettività che arrivava dal mercato, intervenendo non sulla infrastruttura ma sull'elettronica. Da lì è nata la DSL, sono nate anche le forme più evolute di DSL, che sono riuscite in qualche modo, ma in piccola parte, a sopperire la maggior domanda di velocità, di stabilità, di connessione internet. Dopo anni quindi di blocco pressoché totale da parte di Telecom Italia, in realtà l'intervento di Open Fiber ha di fatto un po' sbloccato il mercato su scala nazionale. È anche vero che su scale più ridotta, quella milanese, c'era stata l'esperienza prima di Fastweb, poi di Metroweb, che avevano dato il segnale che in realtà il mercato richiedeva la connessione in fibra, cosa che Telecom Italia per anni ha sempre negato, ha sempre giustificato il mancato investimento perché non c'era una domanda sufficiente a poter remunerare gli investimenti in termini di stesura di fibra, quindi di sostituzione del doppino di rame con la fibra. Questo è quello che la storia recente racconta, ma un minimo grado di competitività nel mercato dell'infrastruttura ha creato le condizioni per riprendere gli investimenti. Investimenti non solo in elettronica, ma soprattutto investimenti in termini di posa di fibra, di centinaia di chilometri di fibra fino dentro le case. Questo è quello che racconta la storia recente. Ha senso parlare di rete unica? Allora, due considerazioni. La prima è che non dimentichiamoci che l'Italia, a differenza di la maggior parte dei paesi europei e anche nel mondo, non ha conosciuto storicamente una competizione infrastrutturale. Ho detto della posizione monopolistica di Telecom Italia, ma posizione monopolistica irrobustita dal fatto che in Italia non si è voluto far nascere una TV via cavo. Negli altri paesi questo ha costituito il presupposto perché si utilizzasse anche questo tipo di infrastruttura per cominciare a posare fibra, anche senza l'accordo delle società telefoniche. In Italia questo non c'è stato. Non c'è stato perché volutamente all'epoca avrebbe leso gli interessi della TV presente, non solo pubblica ma anche privata, che vedeva come minaccia la facilità di una ulteriore dell'insorgere di un ulteriore competitor su un'infrastruttura diversa rispetto alle frequenze radio utilizzate. Questo ha caratterizzato sostanzialmente l'immobilismo della situazione italiana. Quindi oggi in realtà dobbiamo prendere atto che dalle ultime posizioni l'Italia si sta muovendo perché in realtà c'è stato un minimo di competizione infrastrutturale. E questo nella posa di fibra, quindi nella fase nascente dell'infrastruttura. Mi verrebbe da dire, se fossimo rimasti ancora alla posizione monopolista dell'operatore verticalmente integrato che avevamo prima, che si chiama Telecom Italia, in realtà probabilmente saremmo rimasti ancorati nelle ultime posizioni. Quindi più concorrenza in realtà agevola il percorso di investimento di lunga durata e di quindi una redditività diluita nel tempo da parte dei soggetti interessati a realizzare infrastruttura. No, poi c'è un'altra considerazione da fare, vale a dire distinguerei due fasi nella realizzazione dell'infrastruttura. Premesso che realizzare un'infrastruttura che sostituisca il doppino di rame non è opera da compiersi nel volgere di qualche giorno, di qualche settimana o anche di qualche mese. Rendiamoci conto che sono centinaia e centinaia di migliaia di chilometri di posa di infrastruttura che deve essere analoga, quindi in qualche modo in grado di poter garantire la connessione a tutte le unità abitative oggi raggiunte dal doppino di rame. Ci abbiamo impiegato quasi un secolo per realizzare questo. Mi fa un po' sorridere chi dice siamo indietro. Se, certo che siamo indietro, ma è anche vero che dobbiamo recuperare qualcosa che per essere realizzato ha richiesto un centinaio d'anni. Quindi anche farlo in 5, 7, 10 anni credo che non debba costituire motivo per stracciarsi le vesti. È assolutamente ragionevole, soprattutto per il tempo perso di questa situazione di mancata competizione. Ma volevo dire, in realtà quando parliamo di rete unica, parliamo di un soggetto unico in grado di gestire una rete già realizzata. Invece oggi parliamo di un soggetto unico che dovrebbe realizzare l'infrastruttura, perché l'infrastruttura, soprattutto nella parte finale, quella che arriva nelle case, in realtà non c'è. C'è ancora doppino di rame. Ecco, distinguerei le due fasi. Un conto è una fase di realizzazione dell'infrastruttura, un altro conto assolutamente diverso è un soggetto unico in grado di gestire una rete già realizzata. Sono due temi assolutamente diversi. Quindi mi sembra di capire come primo punto che dal tuo punto di vista non ha molto senso avere un'unica società, ma è meglio avere una competizione anche infrastrutturale. Però su questo ti faccio un'ulteriore domanda. Ma questo, anche se la società è a controllo pubblico, quindi in teoria neutrale, o comunque con una governance neutrale, come si sta discutendo, o come ad esempio il ministro Patuanelli ha detto, il punto d'arrivo dovrebbe essere una società sullo stile di Terna. Terna sappiamo che è il gestore della rete elettrica, tra l'altro con un modello e una governance che è, non so se dire, ammirata da molti operatori a livello internazionale, comunque insomma ritenuta soddisfacente per il buon funzionamento del mercato elettrico. Anche in quel caso sarebbe comunque meglio avere competizione? Allora, diciamo, sicuramente il modello Terna rappresenta un'eccellenza a cui poter fare riferimento. C'è da dire che Terna è nata sullo scorporo di Enel, vale a dire Terna è nata per gestire una rete già funzionante, già realizzata. Poi il modello di Terna ha consentito anche investimenti ulteriori di ammodernamento, di sostituzione di parte di linea vecchia e di lenta sostituzione dell'architettura ad albero con una architettura a rete. Ma anche questo, stiamo parlando di un programma assolutamente fondamentale se vogliamo accogliere la sfida del passaggio da una produzione di energia elettrica puntiforme legata alla combustione, quindi poche grandi centrali elettriche, ad una produzione diffusa sul territorio che se non è gestita da una rete con una configurazione a maglie rischia di creare dei colli di bottiglia assolutamente pericolosi, prova ne sia il blackout di qualche anno fa della Danimarca, che un po' improvvidamente decise di passare to cure allo spengimento delle centrali e solo alla produzione diffusa di energia da fotovoltaico e da eolico, la rete è andata in crash perché si creano dei colli di bottiglia, perché purtroppo il vento e l'energia della luce derivante dalla luce in realtà non sono governati da un interruttore come una certa, ma dipendono dal meteo, che purtroppo ancora non è nelle mani nostre. Però questo per dire che Terna ha potuto crescere, svilupparsi e porsi anche degli obiettivi assolutamente ambiziosi di sostituzione della rete, perché è nata da una legacy, da un'eredità di una rete esistente. Quando invece si parla di un unico soggetto che deve realizzare un piano di investimenti, questo qualche cautela la dovrebbe suggerire. Ripeto, intanto si va a sopprimere quel minimo di competizione che aveva fatto nuovamente sorgere l'alba nel nostro paese, e quindi non ci sarà più competizione perché sarà tutto governato da un unico soggetto. Poi se si va a vedere che nella governance, pur non avendo posizioni dominanti, in realtà ci sono interessi. Sì, tutto è conciliabile, però il rischio è che si trovino mediazioni sul livello più basso, non sul livello più alto. Il nostro paese deve correre su questa strada, non deve porsi con l'obiettivo minimale, ma massimale. Tutte le perplessità sono, consentimi, d'obbligo. Cioè, allora, e qui veniamo al nodo, cioè Telecom Italia, per confluire in una società in cui non possiede la maggioranza, e se non vuole perdere parti fondamentali sorreggono la sua situazione non brillante di tipo debitorio e anche di calo degli utenti, dovrà in qualche modo avere delle compensazioni. Assurdo, perché altrimenti vuol dire il suicidio di Telecom Italia e nessuno lo vuole, né è pensabile che gli amministratori lo possano accettare. Per questo io dico, ma perché? E tra l'altro nessuno obiettivamente ancora ha prodotto dati oggettivi in cui si dimostra che un'unica società che ha il compito di infrastrutturare ex novo è meglio di due. Mi sembra una battaglia molto ideologica, molto per parti prese, ma assolutamente non suffragata da dati di fatto, che a me farebbe piacere vedere, ma che però nessuno ha prodotto. Che idea ti stai facendo sulla difficoltà oggettiva che poi si potrebbe riversare sui tempi di realizzazione di questa infrastruttura, che tra l'altro non è che siamo certi e sicuri, forse qualche condizionale dovremmo utilizzarlo tutti un po' di più. Allora, scusami, però andiamo a vedere quali sono i ritardi di implementazione. Quindi non solo ritardi perché uno non lo vuole fare, e tieni presente che posare fibra oggi in queste condizioni, quando non è già stata posata da altri, è assolutamente l'opzione più conveniente. Vale a dire, queste sono operazioni che non si fanno per 10, 15, 20 anni, ma si fanno per i prossimi 50 anni. Nessuno ha ancora previsto una piattaforma, un'infrastruttura di supporto così performante come la fibra ottica. Quindi, quando la si stende pro futuro, si dice, cioè guardando avanti, non tanto la capacità di generare reddito nel breve e medio periodo, che è il periodo di riferimento degli amministratori attuali di una società, ma ha senso guardarla in un arco temporale molto lungo. Ora, non c'è dubbio che al netto delle grandi città il costo di posa di fibra è un costo marginalmente incrementale, cioè più la popolazione è rarefatta sul territorio, più la posa di fibra è costosa, soprattutto in relazione alla capacità di reddito che essa può generare. Quindi mi verrebbe da dire, tutti i piani e i programmi trovano un limite oggettivo. Il limite oggettivo è dato sostanzialmente dalla densità di popolazione presente sul territorio. Ora, anche questa è un po' una caratteristica italiana che bisogna tenere in debita considerazione. Anche la stessa Francia o la stessa Germania sono caratterizzate da una scarsa diffusione di popolazione. La popolazione è concentrata in centri abitati, non è, se tu passi nelle campagne francesi troverai pochissime case sparse. Se tu viaggi nella campagna toscana, non parliamo quella lombarda, ma anche quella del meridione, in realtà le case sparse sono tante. Questo significa che il costo che dovrà sopportare una società è considerevole. Ora, vedo con paura e preoccupazione il fatto che già prima che si costituisca della società si dica che ma le case sparse le raggiungeremo non con la fibra ma con mezzi alternativi. In particolare si parla dell'FWA, il Fixed Wireless Access, si utilizza fino a un certo punto la fibra e poi si va con le onde radio. Così come una volta che il programma è deciso di stendere fibra, ma non ha senso economizzare sulla fibra. I programmi di Telecom Italia condivisi con Fastweb economizzano molto le GPON, queste architetture in fibra ad albero, perché prevedono sostanzialmente 2 più 2 GPON. Gli stessi programmi di posa di fibra di Open Fiber sono 10 volte superiori, cioè non si posano 2 più 2 di riserva GPON, ma 10-12 GPON più fibra punto punto che è destinata a supportare le imprese. Ora io dico, ma se questa società deve avere la vocazione di infrastrutturare il paese, se questa infrastrutturazione legata alla sostituzione del doppione rame con la fibra è un'infrastrutturazione che dovrà servire lo sviluppo del paese nei prossimi 50-70 anni, Ma perché stare a guardare contando i soldi se conviene fare 2 GPON, 4 GPON, o anziché 10, 12, 15, 20 GPON più tanta fibra punto punto per le aziende? Ma è assurdo pensare di economizzare sull'infrastruttura. Ora è il momento buono, che l'infrastruttura costa marginalmente poco rispetto a quello che potrà costare domani saturare tutto lo spazio nei cavi dotti possibile con altre fibre, ma perché già partire con tutti questi pesi e limitazioni? Mi sembra già un parto viziato all'origine. Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più, perché la domanda, come dimostrano gli abbonamenti a Open Fiber da parte degli OLO che su questa infrastruttura garantiscono il servizio, ma dimostra che la gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto, se ne ha 2 lo usa tutto, e già non bastano. Ho presente tantissime situazioni educative in cui un giga è ormai stretto, non parliamo poi delle esigenze nate a valle del lockdown, per cui invece vedo ancora che il refrain della vecchia mentalità di Telecom Italia, che ripeto, aveva delle grandi limitazioni dovute alla economizzazione di quanto riceveva dal passato. I cavidotti sono quelli, nessuno pensa in Telecom Italia di sostituire i cavidotti, non solo, ma il massimo è quello di arrivare in centrale, nella centralina che è sul bordo della strada, e poi con l'elettronica riutilizzare ancora il rame. Ma mi sembra tutta una roba vecchia, vecchia, vecchia, che vedo purtroppo cambiare la pelle, ma rimanere intatta nella sostanza. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa che è la nostra versione super podcast. Io sono Enrico Pagliarini, continuate a scrivermi a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Beh, questa settimana abbiamo messo più contenuti rispetto al solito, ma dipende sempre da settimana a settimana, le cose cambiano. Ci risentiamo fra 7 giorni. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.